Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. Fra 7 mesi si sarebbero compiti 3 anni dalla morte della madre, dopo i quali le donne dovevano riscuotere la loro parte, che il principe, quantunque avesse promesso di pagare anticipatamente, teneva ancora per sé. Bisognava dunque mettere presto in chiaro tutte quelle cose, stabilire quel che veramente toccava loro. Chiara, però, volendo dimostrare il proprio zelo, si mise ad istigare Lucrezia, perché poi questa cercasse di trarre dalla sua anche Ferdinando. Ella si chiudeva in camera con la sorella, o la tirava in un angolo, per dirle tutte le ragioni dello zio monaco, aggiungendo che lei, Lucrezia, era la più sacrificata di tutti, poiché, continuando la politica della madre, Giacomo non l'avrebbe maritata, o l'avrebbe maritata il più tardi possibile, per restar padrone d'amministrar la dote. Lucrezia, non comprendendo nulla degli affari, la lasciava dire e rispondeva: «La vedremo. Ho da dire anch'io la mia». Allora entrò in scena padre Camillo, il confessore. Le cominciò un lungo discorso per dirle che dichiararsi malcontenta del testamento materno era un peccato uguale a quello di disobbedire alla madre in vita. La principessa, da madre saggia e giusta, aveva dipartita la sua sostanza con la bilancia, perché al cuore di una madre tutti i figli dovevano essere egualmente cari. Certo, il principe e il conte avevano ottenuto una parte privilegiata, ma erano appunto il principe, cioè il capo della casa, l'erede del titolo, e il conte, cioè quell'altro dei figli maschi che aveva una famiglia da mantenere con lustro. Per gli altri, la Sant'Anima aveva fatto le parti uguali fino all'ultimo baiocco. Le davano a intendere che avrebbe potuto avere terre invece di moneta? Egli citò l'antichità, i testamenti dei defunti principi di Francalanza, l'istituzione fede commissaria e la legge salica, portando ad esempio quel che era avvenuto nella generazione precedente. Donna Ferdinanda aveva forse avuto beni stabili? Adesso sì, ne possedeva, ma perché, dotata di quello spirito di accorta prudenza che era tradizionale nella famiglia, aveva moltiplicato il capitale lasciatole dal padre, invertendo successivamente in beni immobili. C'era anzi di più. Chi aveva preso moglie fra tutti quei figli? Nessuno. Don Blasco, con vocazione esemplare, aveva rinunciato agli adescamenti del mondo per professarsi. Mentre il confessore teneva questo discorso a Lucrezia, il principe ne teneva un altro un poco diverso a donna Ferdinanda. La zitellona, pure vituperando e giulente, s'era col tempo assicurata sulle loro pretese. Quella bestia del duca, non essendo più lì a secondarle, ella credeva che l'amoreggiamento fosse finito del tutto. Invece, un giorno che si parlava della responsabilità dei capi di famiglia quando in casa vi sono ragazze da marito, Giacomo disse alla zia che anche Lucrezia avrebbe dovuto un giorno o l'altro accasarsi, che da parte sua l'avrebbe lasciata libera di prendersi chi meglio le piaceva, tanto più che una scelta ella doveva averla già fatta. La zitellona a questo si rivolta come un aspide. «Ha scelto? Ha scelto? E chi è che ha scelto?» «Chi? Il solito giulente!» Ella diventò rossa in viso, quasi fosse sul punto di soffocare. «Ah, sì? Ancora? E tu l'hai lasciata fare?» «Vostra eccellenza sa bene come siamo tutti di casa», rispose il principe sorridendo. «Quando ci mettiamo qualcosa in capo, è difficile indurci a mutar sentimento.» «Ah, è difficile, eh? Le farò vedere io se è difficile o è facile.» Da quel momento la zitellona diventò una vipera con la nipote. Le sgridate, per una ragione o per un pretesto qualunque, s'udivano fin giù nelle scuderie. Lucrezia, invece, sfogandosi con Vanna, rammentava le smanie, i pianti, gli svenimenti di Chiara quando l'avevano costretta a sposare il marchese. «E adesso si mette con quelli che vogliono costringere me. Non mi importa della sua opposizione. Una pazza di quella fatta, una bandiera al vento. Ora è tutta una cosa col marito che prima non poteva sentir nominare. Domani cambierà un'altra volta. Vedrai!» Thank you. Adesso dicevasi che anche Fersa aveva finalmente dato ascolto alla madre, aprendo gli occhi e facendo capire al conte che quelle assiduità non gli piacevano. E infatti non conduceva più sua moglie dagli Uzeda, né si vedeva più Raimondo avvicinare donna Isabella in pubblico. Viceversa, egli seguiva la carrozza dei Fersa con la propria dappertutto, quasi inseguendoli. E in chiesa, al teatro, le si piantava di rimpetto, senza più lasciarla con gli occhi. Un giorno la cugina Graziella, venuta a palazzo a chiedere del principe, si chiuse con lui per dirgli: «Cugino, debbo tenervi un discorso molto grave». Da molti anni, da quando Giacomo aveva preso moglie, si davano del voi. «Donna Marafersa mi ha fatto parlare da un'amica per questa storia di Raimondo». «Quale storia?» domandò il principe, quasi non comprendendo. «Non sapete quel che si dice? Raimondo si è messo in testa di inquietare donna Isabella e se ne accorge ognuno per dire il fatto della verità». «Io non mi sono accorto di niente». La cugina tornava a invocare l'autorità della cugina, il principe a lagnarsi della mancanza d'accordo che c'era in quella famiglia, mentre egli invece avrebbe voluto che tutti fossero uniti, affezionati l'uno con l'altro, disposti ad aiutarsi, a consigliarsi vicendevolmente. «Volete che io parli a mio fratello? È capace di rispondermi: ma di che cosa ti mescoli?» E non sarebbe la prima risposta di questo genere. «Cara cugina, voi sapete che teste quadre sono le nostre. No, no, credete a me, sarebbe inutile, se non peggio». E la cugina Graziella cominciò ad armeggiare intorno a Matilde, deliberata di dire ogni cosa a lei stessa. Non era la moglie? Chi più di lei poteva aver diritto di parlare a Raimondo e interesse a distoglierlo da quella tresca? Il barone invece le scriveva rimproverandole l'abbandono delle figlie, accusandola di volere più bene al marito che a quelle creature, chiamandola a casa per assistere al matrimonio della sorella. Ella tentò ancora nascondergli la tempesta scatenatasi su lei, la tortura a cui la poneva con quelle accuse. Ma nell'autunno egli venne a trovarla, improvvisamente, solo. L'imminenza di una spiegazione tra suo padre e Raimondo l'atterriva. Conoscendo il carattere prepotente, i modi sprezzanti di suo marito e gli scatti d'ira di cui suo padre era capace, ella viveva con l'animo sospeso, dimenticava i suoi dolori per evitare uno scoppio, tanto più che il barone pareva non aver creduto alle sue proteste e mostrava un viso aggrondato in quella casa che prima era stato superbo d'abitare. Trasalì a un tratto udendo Raimondo che picchiava all'uscio, chiamandoli. «Che fate?» domandò egli entrando, guardandoli curiosamente. «Nulla». «Nulla», ripeté il barone. «Si parlava della decisione che dovete prendere. Vuoi continuare a star senza casa, a pagar quella di Firenze per tenerla chiusa?» «Io?» rispose Raimondo con tono stupito, come cascando dalle nuvole. «Io, se potessi», proruppe, «a quest'ora sarei scappato anche a piedi da questo fetido paese. Ah, vi pare che ci stia per mio gusto in mezzo a questi sciocchi, presuntuosi, ignoranti, pezzenti, invidiosi e maleducati? Allora, quando hai deciso di partire?» interruppe secco secco il barone. «Quando?» ripeté Raimondo guardandolo un momento. «Non sapete che sono incatenato dagli affari?» «Gli affari, volendo, si sbrigano in 8 giorni». Raimondo tacque un poco, poi esclamò stringendosi nelle spalle: «Sbrigateli voi, se potete». Thank you. Don Blasco era diventato un energumeno dopo che i liberali rizzavano la cresta per via degli avvenimenti di Lombardia, della cacciata del Granduca da Firenze, dell'agitazione che propagavasi per tutta l'Italia. «Questa volta è per davvero! Son suonate le 24!» dicevano, ed egli prima si scagliava contro Napoleone III, contro quel figlio di non so chi, al quale non bastava la propria tigna e veniva a grattare quella degli altri. Poi tonava che Francesco II li avrebbe costretti ad arar dritto. «Perché il ragazzo? Perché non c'è più suo padre? Vi farà legare dal primo all'ultimo, la vedremo!» Egli ripeteva quei discorsi fuori dal convento, dinanzi agli estranei, dalla sigaraia specialmente, dove andava tutti i giorni uscendo dal refettorio. Donna Lucia, allora canonica, serrava la bottega e si metteva alla finestra per vederlo uscire dal postone del convento e infilare quello del palazzotto. Allora gli andava incontro fino a mezza scala con le figlie e il marito. Le ragazze adesso avevano da 10 a 12 anni, erano tale quale Don Blasco, grasse e grosse come mezze botti, e gli baciavano la mano e gli davano del vostra eccellenza al pari di Garino, che si sbracciava per servirlo, per avanzargli la poltrona più comoda e offrirgli biscotti e il rosolio regalati dal monaco a spese di San Nicola. Quella era la visita pubblica che Don Blasco faceva all'amica, perché poi ce n'era una seconda, quando Garino portava a spasso le ragazze e i due restavano soli. Certe volte ce n'era una terza nella tabaccheria. Oltre che il tabaccaio, Garino faceva il caffettiere e teneva 2 tavolini con 6 chicchere per ciascuno, ad uso degli avventori, i quali erano la più parte spie, sbirri e sorci di polizia, giacché egli esercitava una terza professione, quella dell'orecchiante. Così, in mezzo a quel pubblico di fedeli, Don Blasco si nettava la bocca contro i sanculotti in generale e il fratello in particolare, e apprendeva notizie di prima mano intorno ai movimenti dei traditori. E andando via dalla sigaraia, Don Blasco ripeteva quei discorsi in pubblico, nella farmacia di Timpa, che era il quartiere generale dei fedeli, mentre in quella di Cardarella si davano convegno i rivoluzionari. Se qualcuno, scandalizzato dalla violenza del monaco, gli faceva osservare che non stava bene parlare in tal modo agli estranei del proprio fratello... «Fratello!» protestava egli. «Io non ho fratelli, non ho parenti, non ho nessuno. Com'ho da dirvelo?» Si dava al diavolo perché niente andava a modo suo a palazzo. L'anno innanzi, al momento della scadenza del termine stabilito dalla principessa per il pagamento alle figlie, Chiara e Lucrezia non erano andate d'accordo. Il marchese, biasimando l'amore della ragazza per Giulente, s'era riavvicinato al principe, il quale gli aveva fatto la corte trattandolo con le molle d'oro per propiziarselo. Ferdinando, intento a mettere insieme un museo di storia naturale alle ghiande, non s'era neppure informato di quel che avveniva. Così non solamente i legatari non avevano chiesto i conti, ma il principe, adducendo la mancanza di quattrini, aveva ottenuto dal marchese di poter ritardare il pagamento fino all'altro anno. La seconda scadenza era arrivata e Giacomo non pagava ancora, scusandosi con le inquietudini pubbliche, col ristagno degli affari, con la scarsità del raccolto e l'impossibilità di venderlo. E Don Blasco non si dava pace udendo che i nipoti, dimenticate le loro ragioni, accettavano perfino i continui ritardi e i pretesti furbeschi del principe. Quelle bestie di Federico e di sua moglie, specialmente, non davano più retta a nessuno, al settimo cielo per la speranza d'un figliuolo, come se dalla pancia di Chiara dovesse venir fuori il Messia. E quel babbeo di Ferdinando riduceva il giardino in un pestilente carnaio, preso ad un tratto dalla smania di imbalsamare animali, senza accorgersi che il più animale di tutti era lui stesso. Al convento insultava quelli che osavano ancora contraddirgli e le discussioni minacciavano di finir male. Lo stesso abate aveva dovuto pregare i padri di Lenna e Rocca di lasciarlo dire per evitare un guaio. Al noviziato la lotta fra i due partiti s'era attizzata. Il principino, a cui Don Blasco dava l'imbeccata, prendeva anche lui l'aria di un trionfatore, dileggiava Giovannino Radalì, capo dei rivoluzionari, dandogli del «barone senza baronia» e del «figlio del pazzo». Il duca Radalì, infatti, era morto in un accesso di delirio furioso. La duchessa vedova aveva quindi stabilito che Giovannino, come secondo genito, pronunziasse i voti. E questo era un altro argomento col quale Consalvo schiacciava il cugino. «Io andrò via e tu resterai sempre qui». Per la festa di Sant'Agata, in agosto, andarono a spasso tutti i giorni. Assistettero alla processione del carro, all'oratorio cantato in Piazza degli Studi e con piacere alle corse, quelle che lo zio Raimondo chiamava barbarie. Consalvo stava attento al cerimoniale spagnolesco di quelle feste. Il senato della città, nella berlina di gala grande quanto una casa, preceduta da mazzieri e gonfalonieri e catapani che suonavano i tamburi, andava a prendere l'intendente, il quale doveva farsi trovare sul portone. Al senatore più giovane toccava mettere il piede sulla predella, in atto di scendere. Ma allora il rappresentante del governo doveva avanzarsi con le braccia distese per impedirgli di toccar terra. Ma la vera festa fu quella della sera, quando la vasta piazza di San Nicola parve trasformata in un salone, dalle tante facce accese per ogni dove, dalle tante seggiole disposte per le signore che arrivavano in carrozza dalla Trinità e dai Crociferi e venivano ad assistere alla processione. Ora, il domani di quella festa, una notizia straordinaria, sbalorditiva, incredibile, corse di bocca in bocca per la città. Donna Mara Fersa aveva cacciato di casa la nuora. Donna Mara, dopo aver accompagnato i parenti della nuora all'albergo ed essere tornata a casa ed aver preso sonno, aveva udito un rumore nella camera di donna Isabella. Entrata da lei, l'aveva trovata mezza nuda, con la finestra aperta e il cappello d'un uomo rotolato per terra. Se avesse fatto un momento più presto, li avrebbe colti sul fatto, ma dal balcone che dava sui tetti della scuderia, egli era scappato in un lampo. Senza bisogno di nominarlo, tutti comprendevano che egli era il conte. E quel giorno stesso tutti videro il contino Raimondo al casino dei nobili, dove giocò e chiacchierò del più e del meno, come di consueto. Possibile che sfidasse fino a questo punto l'opinione pubblica? O non era piuttosto da sospettare della storia che si narrava? Giusto 3 giorni dopo, i difensori di Raimondo trionfarono. Egli partiva per Milazzo, raggiungeva la moglie e le figlie. Donna Isabella, dal canto suo, era partita per Palermo con lo zio. Don Blasco, però, non aprì bocca su questo soggetto. Egli pareva avesse dimenticato tutti gli affari della parentela, occupato com'era ad eruttar bestemmie all'annunzio delle novità pubbliche, dei voti delle Romagne e dell'Emilia per l'annessione al Piemonte, della dittatura di Farini, specialmente del trattato di Zurigo, che gli dè materia da sbraitare durante tutto l'autunno e tutto l'inverno. Dopo l'abortito tentativo di sommossa del 4 aprile a Palermo, cantò vittoria, gridando: «Ah, non vogliono capirla, eh? Fermi con le mani! Giuoco di mano, giuoco villano! Parlate, gridate, sbraitate finché vi pare, ma senza rompere nulla, chi rompe paga, e neppure i cocci sono suoi!» «Siete voi che non volete capirla, non vedete che adesso non è più come al 48?» «Eh? Non più? E di grazia, che c'è di nuovo?» «C'è di nuovo che il Piemonte è forte, che la Francia sotto mano l'aiuta, che l'Inghilterra, che Garibaldi...» «Chi? E quando?» «La Francia, bel servizio, bell'aiuto!» «Garibaldi? E chi è Garibaldi? Non lo conosco!» Imparò a conoscerlo il 13 maggio, quando scoppiò come una bomba la notizia dello sbarco di Marsala. La notte del 27, in mezzo al malcelato tripudio dei rivoluzionari, arrivò la notizia dell'entrata di Garibaldi a Palermo. Le squadre minacciavano di scendere in città per attaccare le truppe di Clary. Il duca invece raccomandava la calma, assicurava che i napoletani sarebbero andati via senza tirare un colpo. Thank you.